Come per molte altre cose, non tutti i figli di Dio hanno le stesse vedute in merito alle votazioni e l'impegno politico. Alcuni credenti hanno un forte impegno politico, altri vedono l'impegno politico un peccato. Perché, come sempre, ognuno trae le proprie ragioni dalla Bibbia. Chi vede peccato nell'impegnarsi politicamente considera che il mondo giace nel maligno e in rivolta contro Dio. E, come una nave che affonda, non serve tappare le falle, quindi la necessità più urgente è quella di predicare il Vangelo. Coloro che sono a favore dell'impegno politico vedono sì che la barca affonda. Ma proprio per questo è più importante essere alla guida della società. Tutti e due le posizioni hanno delle ragioni che, a mio avviso, prese da sole, sono messe all'estremo. Cercherò di esaminarle. La grande rivelazione del Vangelo è che la Chiesa ha la responsabilità primaria di diffondere il Vangelo e che la sua chiamata è spirituale. Infatti, le promesse fatte ai figli di Dio sono soprattutto spirituali. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Colossesi 3:1-3. Il fatto che la chiamata del credente sia annunziare il Vangelo e sia spirituale, il fatto che il Figlio di Dio sia chiamato a pensare alle cose celesti, non è un motivo per evadere le realtà terrene. Ho presente un giovane molto sanguigno che si convertì a Cristo. Con l'impeto che lo caratterizzava, si mise a predicare Gesù Cristo, a dedicarsi completamente a tutto ciò che apparteneva al regno di Dio. Alcuni anni dopo la sua conversione, vi furono le votazioni politiche ed egli scrisse sulla scheda da votare le seguenti parole che fecero il giro del paese in pochi minuti: la mia patria è in cielo. Era sincero e pieno di zelo, ma non era il momento e neppure la giusta situazione per testimoniare della sua fede in quel modo. Dobbiamo riconoscere che i discepoli di Gesù non furono impegnati politicamente, ma non siamo neppure chiamati a fare sempre quello che hanno fatto loro. Questo è un errore di interpretazione abbastanza comune. E una pressione psicologica devastante prendere, ad esempio, tutto ciò che fecero gli uomini di Dio nella Bibbia. Proprio perché sembra che il messaggio più importante sia quello di predicare il Vangelo, senza che ce ne rendiamo conto, troviamo i credenti che si sentono a posto solo perché evangelizzano, mentre nella vita sociale di tutti i giorni e nella vita di chiesa si comportano scorrettamente. La chiamata per ogni figlio di Dio non è quella di evangelizzare, ma quella di essere santo. 1 Corinzi 1:2. Paolo non ha mai esortato i credenti ad andare ad evangelizzare tutto il mondo, ad essere degli apostoli. Il cristiano, che lo voglia o no, è nel mondo, ha a che fare con il mondo e quindi la sua chiamata è quella di essere santo nelle relazioni con il prossimo nel mondo che lo circonda ovunque egli si trovi. I discepoli dei farisei chiesero a Gesù se era giusto pagare le tasse e Gesù disse di rendere a Cesare ciò che è di Cesare. Paolo ordinò di rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto: le tasse, il dazio, il rispetto. Romani 13:7. Ogni figlio di Dio deve essere un testimone di Gesù Cristo, ma estraniarsi completamente dal mondo non è un comportamento retto. Il Signore non ha dato ai credenti gli stessi doni e le stesse caratteristiche. Non tutti sono dottori, evangelisti, anziani. Ci è chi è portato a lavorare la terra, chi è essere un costruttore, chi è insegnare, chi a vendere e chi far politica. Se un fratello si sente di impegnarsi nella politica, la cosa di cui si deve preoccupare è rimanere santo, comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. Dobbiamo quindi fare una distinzione tra la chiamata della Chiesa e la chiamata personale. Chi ha un qualsiasi compito non può svolgerlo bene senza un vero impegno. Un impegno implica il rifiuto di altre cose. Paolo prese atto che chi compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. I Corinzi 9:25. Non si può essere atleti e vivere come si vuole. Si deve vivere in funzione del proprio obiettivo. E per questo che Paolo disse a Timoteo che era impegnato nella predicazione del Vangelo. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. 2 Timoteo 2, 4. Per quanto posso aver capito, la chiamata generale per tutti i figli di Dio è quella di non immischiarsi nella politica. Scriveva Tertulliano, vissuto nel III secolo, noi in verità rimaniamo assolutamente insensibili di fronte a qualsiasi desiderio di gloria e o di onori. Non abbiamo alcun interesse a formare un'associazione sediziosa e non vi è cosa a noi più estranea della politica. Questa testimonianza non demonizza chi è impegnato nella politica, perché tale chiamata non è demoniaca, né un peccato, ma un impegno serio politico distrae o impedisce al credente di vivere una vera vita di Chiesa. Per me è sufficiente osservare quei credenti che hanno degli impegni sociali e con quanta difficoltà riescono a conciliare il loro impegno con la vita di Chiesa. Del resto, così scrive Marco Rostan su Riforma di venerdì 27 ottobre 2006, i parlamentari evangelici sono una categoria che nella nostra visione dei rapporti tra fede e politica non dovrebbero esistere. Parliamo del voto politico. Stabilito che il credente deve dare a Cesare ciò che è di Cesare, il voto per lui diventa un diritto e un dovere. Per chi votare? Impossibile dirlo, ma una premessa è doverosa. Molti si avvicinano al partito, come ad una squadra di calcio, o scelgono un indirizzo politico come scelgono la moglie. Una squadra di calcio ha buoni giocatori, un buon allenatore e vince il campionato. Passano gli anni, la squadra non è più quella di prima e si continua a tenere per lei perché è la migliore. Quindi, non si tiene più per la squadra perché ha buoni giocatori e lo merita, ma per l'ideale che essa rappresenta. Questo modo di ragionare dà il via ad estremismi e intolleranze. Così una volta scelto un partito, anche se questo ha un indirizzo sbagliato, si vota sempre quel partito. Come chi sceglie una moglie è in obbligo di rifiutare quelle degli altri. Così alcuni, quando scelgono un partito, si sentono in obbligo di rifiutare gli altri o essere contro. Ma nessun partito è quello giusto, cioè nessun partito ha la verità o si comporta secondo la volontà di Dio. Allora, non si dovrebbe scegliere un partito per non divorziare più da lui o per tifare sempre per lui, ma piuttosto, per un periodo si può votare per un indirizzo politico che sembra che abbia delle buone intenzioni per i cittadini. In questo senso non vedo come un credente possa essere di un partito come io sono marito di mia moglie. Paolo, nella sua seconda lettera a Timoteo, ordina ai credenti di pregare per i re e per le autorità, perché possano concedere ai credenti una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. Ora, se si può pregare per questo, tanto più si può votare per un partito che abbia questo obiettivo. Allora, mi direte, qual è quel partito che permette ai cittadini di svolgere una vita tranquilla in ogni pietà? Certamente non una corrente politica totalitaria estremista che non permette la libertà di espressione religiosa. Un governo civile non dovrebbe fare da arbitro nei contrasti religiosi e nessuna chiesa, né moschea, né tempio, né sinagoga dovrebbe usare un potere politico per imporre le proprie dottrine. Premesso questo, in ogni paese libero ci sono possibilità di scelta. Il tuo voto quindi può servire per il bene comune e mantenere o creare una libertà religiosa. Paolo scrisse ai credenti di Colosse e dite ad Archippo, bada al ministero che ha ricevuto nel Signore, per adempierlo. Che attinenza ha Archippo con il nostro tema? Mi chiederete Mino. Accostare ciò che Paolo disse ad Archippo alle votazioni politiche sembra proprio una cosa fuori posto. Un fondamentalismo inutile. Forse sì, forse no. Abbiamo considerato che quando a Gesù fu chiesto se era lecito pagare le tasse, rispose che bisognava rendere a Cesare quello che era di Cesare. Ma egli non terminò qui la sua risposta. Disse pure di rendere a Dio ciò che era di Dio. Fu lui a introdurre l'argomento di Dio in un discorso di vita pratica, anche se loro non glielo avevano chiesto. Forse anche Gesù era un fondamentalista. L'argomento Dio per un cristiano, in altre parole, il rapporto del cristiano con il proprio Salvatore è fondamentale. Se vogliamo riconoscerlo, noi scegliamo il tipo di vita che vogliamo. Gesù disse: nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Luca 16:13. Gesù espresse una verità incontestabile. Nella vita non è possibile essere pienamente consacrati a più obiettivi. Qualsiasi scelta facciamo, essa deve assorbire pienamente la nostra dedizione. Un figlio di Dio è preminentemente un uomo che admira una sola cosa: adempiere il compito che Dio gli ha affidato e glorificarlo. Non è solo serio, volenteroso, tutto d'un pezzo, pronto a tutto, ma egli vede una sola cosa, si cura di una sola cosa, è attratto da una sola cosa, piacere a Dio, che faccia politica o no, che sia inserito in un'attività umanitaria, che sia impegnato nella predicazione del Vangelo. Per lui non importa. Egli si consacra a Dio nell'opera che egli lo ha chiamato a svolgere. L'importante è che il suo obiettivo sia quello di rimanere santo e giusto. Chi fa politica non dovrà avere due pesi e due misure. Sarà a favore della verità anche quando questa procede da un altro versante politico. Chi predica il Vangelo dovrà esporre rettamente la parola della verità anche quando troverà opposizione. Non è certamente possibile per i figli di Dio essere sempre d'accordo sul voto e l'impegno politico, ma su di una cosa dovrebbero esserlo perché il nome di Gesù Cristo sia onorato. Non giudicarsi l'un e l'altro. Luglio 2004. Ellero,